Siamo qui. Eccoci qua, aspetta, sto mettendo le cuffiette. Ecco qua, mi senti adesso? Sì, già ti sento. E tu, in casa? E allora, sono rientrato adesso, ero fuori. E anche io sono uscito presto stamattina. Ho preso un po' di pasta alla pagoda, per la 50. Secco da pianta, io. Ne ho bevuto appena appena d'acqua, perché ero secco proprio. E io via la notte, quando c'ho sette, mi si asciuga la gola, allora mi sento, dico un po' voleva, poi e tira campà, finito la mezzanotte. Stamattina a 5 meno 4 mi sono svegliato, non c'ho più sonno, appeso mi sono alzato, mi sono pulito la roba che ho sporcato ieri, cucinando. E va tu e poi. Io ho il 3009 che mi si è guardato, si sono donato al sorteio. E come me si è guardato? Cosa è successo? Un innesco mi fa quando schiaccio la portante. Il microfono non c'ha nulla. C'ha qualche contatti dello spinotto del microfono? Non c'è nulla il microfono, funziona bene. L'ho provato su un altro apparato e funziona bene. E all'interno del baracchino dove sono gli attacchi del microfono? Sì, devo controllare, non la giugana. Basta rincazzatura e mezzo biglia da rimane. Cavolo. E io devo farmi l'attacco dello sciure, dopo non la giugana. Sai che mi riappoggio e mi faccio un altro pigiolino. Adesso faccia come lei crede, tanto in casa sua. Adesso Natalia, ho due frigoriferi e un pozzetto, ma voglio venire roba da pulire. E infatti? Tu pensa che ho ancora 2 chili di pancetta impacchettata, tutta congelata, perché me l'ho dimenticato di arrostire, raga. Sì, vabbè. Già te ci buruchissa. Ehi, piano piano. Niente, là c'è una signorina, mia ex, che lavorava in mia suocera, la tinta, ad uso, ma carità, stavo cercando di, con la ballerina, togliere tutta quella vernice, ma è tocca che la valla, per farla portarla a legno crudo e poi ridarle un bel impregnante, ma è un bel travaglio. E beh, sei usi sì. Vabbè Tony, io ti lascio che devo fare qualcosa qua, dai, ci sentiamo. Ok, dai, io mi riposo un pochettino, ci sentiamo. Ciao, saluto la 50. Ciao, ciao. Ciao. Oh yeah! Cari, e non risponde, meno male. Oh, dimmi Luca. Vabbè. Pensavo che eri al bar, ho detto adesso mi faccio pagare il caffè da Natalino. E al bar, a casa sono, lo al bar. Cazzo, va che vuole barche un uovo, manco i cibiumi. Io ti stavo aspettando, vabbè. Non c'è nessuno. Allora mi stavo aspettando, mi che sto rientrando, mi ero a Platamona io. Bello bene. Fini ragazzi, a Platamona. No, io sto rientrando adesso. Sto rientrando. Ed ero lì. Siccome ho telefonato a Bruno e c'aveva impegni, e allora me ne sono risalito. Però ero lì. Capito? Te lo può dire pure Bruno. E allora hai fatto toccate fuga. Se manca arrivi devi girare al bar. No, non sono entrato al bar, no. Ero al telefono con Bruno, sarà stata un'oretta lì, non di più, e poi me ne sono andato. Ah, ecco, ecco che la vedo. Se tu non mi telefoni io, come faccio a sapere se sei lì, se non sei lì, potevamo scendere assieme, non lo so io, vedi tu, non so, vedi te, caffè, caffè io me l'ho preso. No, non ti ho visto. Vabbè che fuori non c'era nessuno, Non c'era nessuno seduto fuori, così che. Io sono sceso per pigliarmi il sole e solo il lupo. Per quello non c'era nessuno. Ma neanche dentro. Capito, ho preso il caffè e me ne sono andato. Va tu. Yeah. io già sono sceso, è la verità. Però sole non ce n'era, e cosa lasciate in chi vi russi? La rasura, a chi non verrà manco Bruno vi va via impegni, ha detto. E quindi me ne sono andato per quello. Io mica lo sapevo che c'eri tu. Mi sa che domani scendo a fare qualche lancio. E oggi non mi sentivo tanto bene io, mi ha già legato burro vacuolo dalla macchina, perché ho tutto messo male. Chieve, chieve. Si tu che farà Gianni, burro invece non per farà di nessuno che magari sono tardi, boh. A me non mi piace farmi così, sto pegliando il caffè, capito? Le 9 massimo, non di più. E infatti cosa taglio non andava bene? Taglio uno a di fare così su, a di fare un brando, chiccio, guido. Se domani per usori vediamo un po' buffaro, vedi? E tanto il mare era calmo, così che... Sì, già lo so, però non mi sento bene della schiena io. Sono andato in farmacia pure a pigliarmi quelle gocce che le sto finendo. E poi sono sceso lì. A scroccare il caffè a Giulio, ma Giulio non ci scende lì, capito? Sì, non ci scende no lì. Dimmi, adesso vado alla macchinetta, lo scrocco la macchinetta al caffè. fai bene, peccato lo stesso col centro commerciale. Peccato veramente quel posto. Sarebbe stato così utile. Cosa? Il centro commerciale. Il tuo pettine. E a chi cosa è successo? Che è stato abbandonato. Abbandonato. Cesso che. Ai miei tempi era sempre pieno lì. Sì, ma l'avevano anche ristrutturato, però non è andato lo stesso. Sì, ma io dico, almeno facci qualcosa, no? Tutti saranno abbasciati, tutto in degrado. Guarda, sarebbe una cosa bellissima lì, facci dei mini appartamenti per i turisti. Poi sarebbe una mini appartamenti, più qualche pizzeria, ristorante. La sedina che abbia fatto da adesso a settembre, via. Beh, quello sì, è che qua noi sardi non abbiamo la mentalità imprenditoriale, capito? Come ce l'hanno i continentali. Infatti tutti i locali, tutti i cosi, tutti i continentali, mica sono di Entisaglia. Noi non siamo buona panuda noi. Infatti, vabbè, da Briatore, viene un Briatore in costa, apre e fa dei milioni. Vieni Gerry Calà, apri e fa sedina. Per carità. E noi come un centro commerciale così grande, trasformato, cazzo, in mini appartamenti e cose, ristoranti e pizzerie, per il turista, tanto giuro baghi su per abriacchi, per una famino che ho Iuia. E infatti. Fino a che venni, apri, ne ci fa sedina. Il dubriatore si è abito alla discoteca e ha fatto ritirare, ha fatto un bel niente. Ghidato che travagliava in televisione, lo mattessi, Umberto Smaila a fare un locale in chi vi mattessi. Ha tutto qua, tutto ce l'ha. Sì, tutti i bazzini, infatti la garzone, quanti bazzi, lo continentale e di soli, padroni a chi viene in Sardegna a fare i cani magnatori. No, che si bisogna fare, non è speciale i cani magnatori. Lui, quel Briatore, cazzo, non ha solo quello il locale, no? Cazzo va finta in Arabia, mi pare che è andato, in Arabia Saudita e ha messo pure in Chivi. Sì, ne ha 8 mi sembra di billionaire. C'era anche a Dubai, Monte Carlo. Perché vanno in posti dove possono fare soldi, capito? È così, quelli vivono dall'imprenditorialità, a chi bisogna va. Che criticarli, bisogna ammettere solamente che noi non ci sappiamo fare, e boh. No, il sardo non ha proprio la mentalità dell'imprenditore, capito? Non rischia come rischiano loro. Senti, sì, si ribondono i debiti, però cazzo si aprono i locali e si fanno di nada a buio. Sì, esatto, esatto. Peccato veramente quel posto. Infatti cosa da gita la sali? Cazzo, cosa Ernesto? In 4-4 sotto il rappenditutto. Tutto nel circondario è tutto abbandonato, una discarica a bar. E chissà che fa zigoso, capisci? C'è il Lido sul mare, quei due bar. Cazzo, prima del bar della Torre. No, va dimmi tu, se dei bar del genere sul mare è il sogno di tutti, aprire un bar sulla spiaggia. Sarrati. Proprio sì, ma devi lavorare solo con la mentalità del turismo, perché lì anche se apri tu per i sassaresi fai giù la fame, vai, e buh, non te ci manca la paga dell'operai. E isso è, cazzo, ti pari, se il locale turistico deve aprire sempre, non solo in Italia. Sempre a Becciu e ben disposto per i clienti. Guarda, stai uscendo male, Natalia, come un falso contatto, qualcosa che sta grattando. E forse non ho schiacciato bene. Infatti, vedrai, se chi si parla i bilan continentali, infatti, Elena, io non so che bagosa. Perché hanno tutta un'altra mentalità, non sono come noi. Lui. Si fa zinitezza a zero, si fa zinitezza. Ma chiunque di continentale, cazzo, per principale di babbo, chi sa addirittura sapeva cui vado, una tedesca sapeva cui vado. E lei fa Eda che ha visto un chivi gatto a Tintino e si faceva milioni lui. Cazzo. Platamona un po' denigrata, un po'. Boh. Vorrebbe un po' valorizzata sui volantini turistici, queste robe qua, capito? Ma perché molti affittano le loro case, anche chi c'era il villaggio grigio, il villaggio rosso, le affittano ai turisti, ma da tantissimi anni ormai, eppure sempre la solita famiglia ci va ogni anno, eppure quei soldi li fanno, capito? Eppure c'è un sacco in vendita anche nei villaggi turistici, perché a me mi arrivano le notifiche tramite subito.it e molti se le vendono, ma non è meglio che l'affittare un turista, tanto che questi 3 mesi devo attendere un battuto l'anno. Vuol dire che hanno difficoltà magari per affittarle, che ne so, e se ne vogliono liberare, capito? Pochi maledetti e subito. E i continentali vanno a fare a faccia nulla. Sì, secondo me il centro commerciale l'unica cosa che ci puoi fare è quella lì, e boh, basta, dai locali, fai dei mini appartamenti, tra mezzo, fai il bagno per 2 persone, 3 persone, uno esce con l'asciugamano sulle spalle, non è bar vero, quando rientra, vero bar, va alla bizzeria per passare il resto della giornata, per restare una nottata magari un locale, perché è talmente grande quel posto che un po' di roba gli accesce, e bisogna avere fondi, bisogna avere che... ce n'è anche in vendita, c'è uno su subito.it in vendita di quei locali lì. Ci sono le fotografie anche. Sì, figurati. A noi ci mancano gli alberghi, devono fare alberghi lì. A usare i diritti di Veneto gli sanno che ve l'albergo in Chivi. Sì, come se che sono gli anni passati al primo pettine, non è perché come entrano già filmato, quello del primo pettine, che l'hanno trasformato per i neri, per carità. Tutto pieno chi su è, che poi ci avevano fatto il coso per un istituto per anziani abusivo, o cosa ci avevano fatto, una cosa del genere, ti ricordi? Che all'epoca era un ristorante tanti anni fa, poi abusivamente ci hanno fatto questa cosa, adesso il comune ci ha messo i neri dentro, bello, proprio guarda, lì proprio sulla spiaggia ci sta benissimo, vedere questa gente lì in giro, guarda, è uno spettacolo. E infatti l'albergo l'avrei costruito per i turisti e lontano da questi posti, in modo che la gente non veda questo scempio. Il problema è quello. c'è anche il problema che aprendo un albergo lì come quello del primo pettine, così tenerlo aperto solo in estate, devi trovare personale solo per quei 3 mesi e lavorare solo col turista naturalmente, e boh, poi chiuderlo e riaprirlo solamente quei 3 mesi, perché intanto d'inverno vai a Vami, non puoi pagare operai, come il bar che c'è lì alla rotonda del primo pettine, lo stesso ristorante, quello su sulla strada proprio, e quello è un peccato, e quello è chiuso. Tu passi davanti, ci sono sempre i tavoli apparecchiati, vetrate, perché non ci sovrintende nulla, ci vedi sempre i tavoli apparecchiati, però è chiuso. Giurati. Da voi chi sa discarica gli hanno fatto, non ne hanno fatto tutto i givi, chi sa discoteca chi vira, chi sa mondetta chi vira, non ne hanno fatto tutto e hanno lasciato tutto così, ma poi c'è zira c'è a Roma, ma che scempio è, la forza è un turista, non vive. Infatti, cosa cazzo da in chivi, la roba, ma, devo buttata, di brutto, ma subito però te l'avevi buttata, senza la calla manco una di in chivi. Se no, non buttarla giù, piuttosto lasciala così, no, è un degrado, ma sempre meglio vederlo in treo che vedere che c'è montagna di cacinacci, di cose che vedere appunto tutto recintato, tutto una... Lascialo così, boh, quando decidi fai dare questo che sarà vini, no? Infatti, e piremo che a Romanco racconti anni che su che lo ristruttureggi anni chi su di Ernesto, a che di Rugomune chi su? Ernesto, lei è caduto un contratto, deve essere che non li confini a più e veniva nel biliardo. Ma io sapevo che c'era stato dell'abusivismo anche, della costruzione che lui aveva fatto anni fa abusiva. Questo l'hanno scoperto dopo, ormai lui aveva già chiuso già da anni. Adesso non so, boh, io visto che erano già la prima soletta, però sinceramente che cosa stiamo facendo non l'ho neanche letto in qui nel cartello che c'è lì. Però per dirti, hai visto, sta in 448, ci offendi, e porca miseria, c'hai lidi abbandonati, c'hai bar abbandonati in spiaggia, tutti i chigosi e la sì. Sì, il 448 lo usi ristrutturato. Oh. E che è del comune, no? È 448, no? Che sono comparato, quando ero della Valle Indio, sono comparato a fare sopralluogo con i tecnici in Chivi, sono comparato. No, è 448, chissà quanto vanno i bulli. È parecchi anni fa che hanno fatto il sopralluogo e tutto, deliberato di acquistarlo, di sì, ui, a quando a fare la cosa non grande, molto di risa, lui. Quello sì, no. Ma a me avrebbe fatto più interesse aprire uno di quei bar che c'è sulla spiaggia che non buttare a terra tutta quella roba lì e rifarla. Se proprio dovessi cercare un'attività avrei preso uno di quei bar, informato al comune sotto, dove, cos'era successo, se si poteva aprire, e cercare di investire e cercare di aprire. Intanto poi d'inverno lo devi chiudere per forza, perché d'inverno naturalmente non ci va nessuno, e apri da giugno a settembre, finché c'è movimento, finché c'è turismo, da voi torre sarà, cricchi tutto, bene, sigillati, anche d'inverno da voi i facciani tanto vai. Che da voi no, che non vi vengono neanche i turisti miei a Platamona, andano i turisti. Se vanno Olbia, vanno in Costa Smeralda, noi noghi, a Tintino vanno noi. A Tintini andano a vedere i turisti. Ma vedi il bar appunto della torretta, eppure tu guarda l'estate sempre pieno, durante il fuori sempre pieno, aperto anche lì a fianco, dove appunto sei più privacy, dai, dall'interno là, stai bene, ed è sempre pieno, cioè io mi chiedo, ma come fanno questi bar sulla spiaggia, sul mare, porca miseria, con una veranda così bella, a non riuscire ad andare? A me lo dici, è un casotto qua. E addirittura vado nei burri in Chivi, non si ritende tu, nei primi bar che vi sono in Chivi. E Io preferirei mangiarmi un gelato nella veranda, appunto lì, che non al bar della Torretta. Perché al bar della Torretta sì, sei sempre lì vicino al mare, ma non è la stessa cosa che a sé a Occi proprio, come sono quei bar così belli. Sì, infatti. E però andano in tutte le parti la Torretta, cazzo. Beh, si sa sarà di chi di baffuzza. Bisogna fare una telefonata da zio Briatore, 448, ne vedi cosa fatta. E chi quello lì se vede l'affare, investe di brutto e ne vedi cosa va davvero, no buffonendi no. Chi su quando vazi vazi. Allora. Perché vede, secondo me hanno fiuto per queste cose anche questa gente, come Gianluca Vacchi, personato prende milioni. Ti credo. Chi su addirittura, chi su Umberto Smaila, quello fa anche piano bar, che suona luci, va proprio lui a suonare e a cantare lì. E anche Gerry Calà mi barriverà in occhio. Ma non lo so se Gerry Calà ce l'ha, Io so di Umberto Smaila chi l'ha in Costa Smeralda, come te Briatore, quelli già li conosco. Sì, perché fare soldi purtroppo dalla gente di qua, secondo me non si guadagna abbastanza, anche perché quando apre il Briatore un'impulla di champagne si cuocia una bacca di dinà, ma è da lì che guadagnano anche allora. Solo l'ingresso non so quanto costa, i privé, tutte le cose che date, magari un pacchetto di patatine di costa 50 euro. Ma perché? Perché ci va gente pure di là, piena di là, che quei soldi lì li spende. È così che vanno avanti, e mica con una persona del posto che solo l'ingresso dice, oh troppo mi guscia, non vanno nemmanco, solo entra, figurati quando sei dentro da bui. Svinare di vivoni. Vedi una pizza che aveva inventato Duedu, che da poi era Burumara, cantare dito, non so quanto gustava questa pizza, Libriatore proprio. Ma c'è il nome, secondo me è tutto il nome anche che fa. È il nome. Qui poi i locali, cosa andranno a finire? A spaccio di droga, prostituzione, anche i pedini che purtroppo le dinasi fanno di sulle chili. E allora si danno a quello lì, infatti i locali aprono in Sarraniburu subito, anche da Bisitazina allo spaccio. Poi se vuoi pigliare un gobbi ti basta andare sul locale, sei a punto, è assicurato. Ciao Luca e ciao Natalino. Ciao Giulio. Sono i messaggi su WhatsApp, ecco, buongiorno, avanti Natalino. Fate l'immagine a questo Giulio mio. Ehi, auguria. Vabbè, anche non lo sai, se me l'avete dato tu a te, se non te la metti, il K, come te, il K, K2, boh, 520, K, boh, KD, 520, aspetta, ti posso la fotografia e te lo mando, aspetta. KV, KW, 520, 1.8200. Sì. Natalino, sì. Il problema è che anche se uno si mette qua tutti cusucci, perché se uno non ha fondi necessari deve fare una società così, per aprire un baretto così come quelli che ci sono lì, sperando nella stagione 2023, no? Ah, ne sai, perché uno dice sì, investiamo, c'è la partita IVA, c'è da fare, prendere almeno due camerieri, dare dei biglietti da marito. Sperando che poi vada, ci vuole inventiva e una cosa, un cambiamento radicale proprio di mentalità e di usare di come trattare i clienti, tutti che cosi, i buoni gammari belli pitturati e uia. Ehi, Arusogu! Giulio, cosa stai facendo? Stavo facendo la fotografia. Avanti lo mando, Luca. Ehi, e noi stavamo andando a te a scroccarti il caffè lì al bar della Torretta. No, stavo sistemando i gamberi, sicché non potevo essere lì alla Torretta. E te, Natalia, e noi bevendo il caffè e ti imbucciando i gamberi. Ti immaginate? Chi c'è Giulio che? Chi se fanno pagarsi un caffè mia ragosa, la Dorretta che? Che si è andata, questa voce non è andata così, ma poi mi rimane che da niente la cosa da ciappa. Così sappiamo se te ne può pagare oppure no. Alla traghetta mi saranno i rari ulti, io so più mani e quindi più impegnato. A chi sarà la prima volta che l'hai pagato io, no? Natali, e te la metti tu. Ah, Razzurri, a te immagini già, è subito. Quello, tutto gli puoi dire a Giulio, però il caffè a me me l'ha sempre pagato. Capito, quando ci trovavamo, una o due volte ci siamo trovati lì, a Giulio proprio non per voi lì, avanno io mi confondendo per vedere cosa dizia, ma è subito mi vici orai. Allora, noi ci abbiamo provato. E ha detto che non attacca. Giulio, a me che stiamo cercando un socio, mi aprire un bar. Beh, quando vi vuoi vedere di là? A chi di là? So come te ridurori. Callassi di bene. Ha sentato, si è visto? No, non mi so che ha sentato. Io ero a questa della radio. Canta, canta Napoli. Oh signor. Saluti Napoli Juventus, o meglio Juventus Napoli. E che ha vinto giù, lo Napoli? La partita d'andata l'ha vinto lo Napoli, mi pare 4-1 se mi metto bene, una cosa del genere. E poi saluti penso che vinceva lo Napoli. La Juventus è la squadra dei Calabri che sanno. Però non si sa mai, dai. E infatti. Ma cosa voglio dire? Ma mi sei uscito a Gabbo, era mio famidente di Dinà con Luca. Siamo secondi tutti. Luca, la gravidia a che temperatura è oggi? Luca, inteso, dite a vedere che temperatura è oggi la gravidia. A me mi pare che oggi mi dai il frigorifero e do la gravidia. Così è, Luca. No, ma che attendo un buono buco. Non attendo oggi, martedì che è festa. Ma oggi a chi seguono i baraoli così stremizziti? Ma che non li mandi più belli che i baraoli oggi, Luca? Cosa, perché, cosa c'è? Perché parli sottovoce che quasi quasi non ti senti nemmeno tu da solo. Boh, non so, io non ho toccato niente. Mi avete regolato voi qua ieri. Sì, ma se tu non fa vedi, se non fa vedi, se le parole non le mandi un po' di aria in più dalla bocca, è utile che noi te lo regoliamo quando tu da voi andi sospirando. Beh, sono andato la tariffa. E a Luca oggi ribiata sui pirà. Stiamo cercando un socio, Giulio. Stai cercando un socio? E per cosa? Perché con Natalino dobbiamo riaprire quei bar che ci sono sulla spiaggia lì alla Torretta. Oh, lì. Hai compreso che le società in Sardegna, non Sassano, in Sardegna sono impossibili da fare, anzi, forse addirittura a livello nazionale anche. Basta mai dalla politica, se vuole non fare la politica, ne gamba di luce l'uno con l'altro. Oh, yeah, Natali, la società vuole fare, e di cosa? Io dico che andava l'anno a sequestrimi, Luca. Come te soggedai, dove riesci a rindì? Sì, vabbè Giulio, allora lo dico a zio Briatore, così impari, ecco. E che te ne frega di Briatore? Oh, una bitta a 150 euro, e chissà che la bondezza è putra, là. Peggio baga banda, peggio baga e macco che anda, ma tanta gente, guarda io ho servito tanto per dicevare, io ho lavorato per tantissimi anni, 40 anni più o meno, con le persone così, così dette, così chiamate. avanti, no? Qui i grandi i ricconi di Sassari, gente, tanto per fare un esempio, Troffa, tutta italiana, insomma, quelli veri lì. Soprattutto in quegli anni, quando era stato sequestrato Troffa, che ve lo ricordate, no? Lui aveva una barca, io lavoravo per quella barca, per quella officina delle barche, che c'è lì vicino al quadrato, e c'era una barca parcheggiata di Troffa da 200 milioni. Sai cosa mi raccontava il meccanico? Che lui era quello che faceva manutenzione per tutte queste barche, eccetera, eccetera. No, non solamente per quella, ma per tutte. Io non sto dicendo di Troffa, buon'anima, no, sto dicendo in generale, tutti questi ricconi. Dice, c'è gente che ha la barca solo per farsi vedere, però tu poi vai lì e quando escono dal porto si fanno un girettino vicino al porto e rientrano, ma che no, non vuole consumare un carburante. Così mi diceva il meccanico, e questo per anni me l'ha ripetuto, oh Luca. È vero. Sì, beh, una barca del genere vuole tenuta, poi la tieni in porto, tipo anche a Castelsardo, che ci sono le barche di lusso, diciamo così, anche lì. Comunque hanno un costo di ormeggio, capito? Non è che io lo so, perché mio cognato ce l'aveva, grande. E lo so, così che cazzo, non è solo a mantenerla. E poi cioè, un conto ce l'hai, la usi qui da giugno a settembre, è un conto. A un conto che la dati residi e la buona dati bianchi, un gasolio goccia e fatti solo per farsi vedere. E boh. Sì, ma bisogna che a gasolio non è drattani. Allora, vedi quelli ciechi, quelli che arrivano a Porto Cervo, c'è su Grecio mio, ogni yacht. E con tanto di personale che quindi sbassano il personale, ma te ne immagini una cosa del genere, Natalì? Cioè dimmi tu i milioni che fanno quella gente lì. La rubidruglio, via rubidru, problemi di carburante hanno secondo te? No, ma non di carburante, no. Nel senso che comunque gente che sta bene, che è milionaria, che ha soldi, non neanche loro sanno quanto, per avere degli yacht del genere e venire fino a qua, cioè è una cosa incredibile. Guarda, questo meccanico, lui faceva la manutenzione, poche parole, questa gente che viene da fuori anche, oh, tutti i terricoli eccetera, che hanno la barca qua, e ce l'avevano anche parcheggiata nella sua officina di questo amico, e mi diceva, io metto la barca in mare, gliela preparo per quando arrivano loro per le ferie eccetera, gli metto il carburante, gli faccio tutta la manutenzione, preparo, tu non hai l'idea di quanti dinami devi venire i taglienti che ancora non mi hanno pagato, ma dico no, una volta, io parlo addirittura di grandi imprenditori di Sassari, che gli regalavano solo bottiglie di sfumante, di queste cose qua, secondo lui, secondo queste persone, doveva fare il lavoro in cambio di sfumante, gli dice io voglio l'idinare perché io sto lavorando per i soldi, non per comprarmi una cassa di sfumante, ma che la cassa di sfumante tu mi paghi, me lo compare giù io, voglio l'idinare a me che ho guadagnato, capito Luca? Lo so, così sì, quello sì. Non vediamo quello che c'è dietro, come trattano il personale, quello non lo vediamo, però andarli a criticare nel senso, come si dice, no? Chi su vari milioni, però è secco, però è qui, sì, vari milioni, però va alle super ville, c'ha le super barche, c'ha le super macchine, ma di cosa va vedendo? Siamo solo gli rusi e buh. Appunto, nonostante che sono gente ricca, però sono pure assiccati, gente che magari se ne frega di quello che lavora, capito? E allora si comportano anche in questo modo. Quello là rimaneva anche da un anno all'altro senza pagarlo, dopo aver fatto il lavoro e avergli dato la possibilità di farsi le vacanze con la sua barca, sì, questo sì, però manutentata da me e soprattutto riempito il serbatoio di carburante con i soldi miei, diceva, e a me non gridano, arrivi mai con questa gente qua. Cosa ci vuoi fare? Comunque, io gli invidio, va bui. Giustamente è il sogno di tutti, penso, vincere, fare una bella vincita, perché di Zividinano su nuda, la salute e chissù. Non è che la salute manca pure a un bovaro, non è che manca solo a un ricco, però a un ricco, intanto quando è in salute ci arriva pure a dinà, lo povero ci arriva male, a che povero è pure senza salute, ma di cosa fai più tempo? Bah, meglio. Possibilità il bovaro non lo sai, quando è malato, dico la sicurezza, con gli specialisti eccetera, invece loro potrebbero anche, anzi sicuramente si curano con i soldi, col portafoglio di denaro non fare né la salute, no, le denaro più buoni vanno alla salute, anche se no sei sempre malato, se non vai di là sei sempre malato, non venuto da là. Avanti Natali. Se Berlusconi va a farsi buoni un pacemaker, cazzo, è andato in America, a chi no che non vera ne vuole con il virus, però non si fida, in America è andato. Addirittura qua a Sassari abbiamo il centro cardiologico che è il migliore del mondo, figurati. Vedete, è andato in America a farsi buoni un coso, un pacemaker, che è un taglietto, Quindi se aveva fatto buoni un vibratore era stato meglio. Sì, lo si vede completo, non è fatto, non l'ha compreso. Incredibile, purtroppo così è cosa vuoi fare, d'altronde. Comunque, ho sentito oggi le sue condizioni lentamente, ma stanno migliorando oggi. Ho sentito stamattina il giornale radio, ma sì, è meglio che migliori, per carità, ci mancherebbe altro. La salute non si deve mai odiare per nessuno. È meglio che migliori e che se ne prenda presto. Però le idee poi che ognuno di noi ha nei suoi confronti sono idee altrui e ce le teniamo come sono. Avanti Luca. Sì, è così, sogno di tutti diventare fare una bella vincita, Giulio, perché comunque ti togli tutti lì tanti sfizi, tanti, una bellissima casa, macchina di lusso, cioè tante di quelle cose che quando sei buono non le puoi fare, il problema è quello. Non ti stiamo a dire, ma chi so parla di Napoli però è così, ma chi so parla a Villa però è così, uia. Magari ci si diventa così quando si è i soldi, però io sono dalla loro parte. Ma quando l'hai troppo, però quando muori si muore al rinnegato, eh. Invece lo bova quando muori, finalmente, gli ho finito di soffrire. Così è Natali. Parlavo i santi giù. Infatti Natali non si dice che cosa di ma qualche avviso di milioni di euro di rampe, no, è meglio rimanere povero, la manco sto gusano. Per vivere in maniera dignitosa andava fuori, tutti i cantoni sono tutti clavisi, tutti macchini. E alle volte anche questi strabizi sono anche letali per certa gente, e lo sappiamo, no? Che come sono se viziosi, che come sono se la buia, riguarda un raggio senza nemmeno esitassino. Avanti Luca. No, stavo dicendo, forse ti ho parlato sopra, ho detto, infatti se Natalino vinci un cacchio milione di euro, si rampa che dici, ma no, da buio divento, magari mi tolgo troppi sfizi, mi tolgo troppi viaggi, mi compro troppe macchine che mi sarebbero sempre piaciute. No Natale, ma allora ti dico, io ritina non faccio mai di nudo, regando io durravo da pigliarmi lo stipendio e cose tutta me moglie da zio. Ma stiamo parlando di Dina vero, un bel Giulio Natali, capito? Che ti puoi togliere tutti gli sfizi senza pensarvi di voi, chi sono sempre piaciuto, pronti, compro. La di San Villetta, bellissima, pronta. Cioè, ma di cosa parliamo, dai? Sì, vabbè, quando si vuole dargli una cosa esagerata, vabbè, ma uno che va a fare, non so, 1 milione, 2 milioni, non è che si può considerare ricco, eh. Isso è solo un discreto benestante e basta. Se si sa mantenere pure di nasce, da voi non si sa mantenere, è solo un capiscevidato e basta. Ma stiamo parlando di gente che ha tantissimi soldi, proprio che non riesce nemmeno a contarli di quanti ne ha. Ma per avere piccole cifre, 1-2 milioni, cosa vuoi che sia oggi, con il costo della vita moderna, no? Non è che ti salva tutta la vita, no? Quando viene la gente con 30-40 di milioni, beh, chi si riserva tutta la vita? Ma per 1-2 milioni non è che sono così, diciamo che sei leggermente benestante. Vai Natalì. E infatti, ma che se ti rimani invece di Nassai, mia città, e non torna più. E infatti, no, perché di là guadagnati, avevo un sacco di sacrifici e tempo, un bel. Ai pendite mi vuoi pochi minuti ai pendite. Capita. Allora, prendiamo ad esempio gente come certi calciatori, ma parlo di calciatori a livello di Ronaldo, che è ultramiliardario, eccetera, no? Quando comincia a avere 5-6 macchine da 700-800 mila euro l'uno, o addirittura 2-3 milioni, perché neanche da 2-3 milioni di euro, così, abbandonati in garage, oppure che ha l'aereo personale, oppure che ha la sua barca, eccetera, eccetera, lì si sono viziosi, per me a quel livello, vabbè, buon per lui che li ha guadagnati, d'accordo, però sono viziosi, quella gente viziosa secondo me. Vai Natalì. Sì, infatti, si fa e comincia a fare tra vizi, tranquillo, te cini subito, ridinà. Ma quello secondo me lo fanno per una questione anche di investimenti, di paure, di... Guarda, quello che mi dà più fastidio a me è come, senza fare nomi, Valentino Rossi, senza fare nomi, e tanti altri, non solo lui, andare a evadere, ok, andare a mettere i soldi nelle altre banche, guadagnati qua e mandati. Quello mi dà più fastidio, ma soprattutto evasi, quello mi dà fastidio, da un milionario mi dà fastidio, capito? Perché il povero lo craccano, al milionario che evade milioni ed è sempre milionario, a te sei bovaro, hai evaso una certa cifra, se ti craccano e ti mandano in povertà assoluta, a loro, anche se li mettono una multa di 4-5 milioni di euro, non li gocca manco un bero. Quello che mi dà fastidio, capito? Ma per esempio a Briatore non lo puoi multare per evasione perché lui abita a Monte Carlo, le tasse lui le paga a Monte Carlo perché ha la residenza lì, a Valentino Rossi la viene cubiato che era una residenza di comodo, hai capito cos'è il discorso? Lì di casa Bruppio in Chivi a Monte Carlo, ma pure la casa in Kenya se paghi su. Hai compreso Natalì, ma perché evadere? Io dico guadagni milioni di euro, ok, su 100 milioni di euro te ne chiedono uno, io faccio un esempio, non me ne intendo, te ne chiedono uno di tasse e lo vuoi anche evadere, ma dai. Se abiti qua le devi pagare le tasse, perché se no sei un evasore. Se invece tu hai la residenza da un'altra parte, ma residenza reale, no come ti ha fatto Valentino Rossi o qualche pilota qualunque, a chi si va in gabbo fazzini non sei più mudo e non sei su farina del loro sacco perché sono consigliati dagli avvocati. Per esempio Mina, lo sai dove sta? In Svizzera, e quella le tasse le paga in Svizzera, mica le paga lo Stato italiano, perché non abita in Italia, ha la residenza fuori. E infatti dicono, il governo dice, se i milionari le tasse le pagassero qua, non sarebbe così, invece no, a te povero che fai l'impresario qui con una piccola impresa edile, ti graccano con l'IVA e per forza le devi pagare, loro le scappatoie ce le hanno, nonostante i soldi li stanno guadagnando qui, cioè, ma ti rendi conto, quello che dico io. Ma il peggio non è quello, queste grossissime aziende di solito prendono soldi, hanno sempre preso soldi dallo Stato, poi di punto in bianco cambiano idea e dall'Italia se ne vanno, la loro industria se la portano all'estero, se la portano. Ma dico io, tu governo italiano, ma quando mai non sei intelligente? È preferibile che quello si può andare all'estero e lasciarci così con un pugno di mosca a noi. Tu devi fare un contratto che quando quelli si spostano devono restituire per intero tutti i soldi che io ti ho finanziato nel corso degli anni, perché già lo sappiamo, un nome a caso, la Fiat, tanto ma fa un esempio, no? Vai Luca. Sì, esatto, secondo me c'è una questione di convenienza da parte anche del governo, stare zitti, non cercare questa gente che ha i milioni e prendersela sempre con il povero. A chi lo bavaro la ciappana, dai dall'angolo e la ciappani, capito? Le vini vogani tutto, vini vogani, la ciappani di tutto. E invece chi dico, con la scusa delle residenze fuori, l'attività fuori, le di naffendere i noghi, non riesce a ciappare nulla. Cosa la ciappi? Ci sono gente, ricchi di noghi, e da Busa ne va tu la cittadinanza in un altro paese e non li puoi perseguire, perché addirittura si fanno oltre alla residenza anche la cittadinanza e non risultano più neanche cittadini italiani, hai capito? Senza contare le società offshore che neanche nei paesi dove risiedono li mettono i soldi, li mettono alle Cayman dove non li puoi acciappare. E dai, purtroppo è così, senza poi considerare che quella gente hanno fatto i soldi e si sono arricchiti a dismisura sempre con il sacrificio dei lavoratori, senza considerare poi Burulisso, magari i lavoratori l'hai sempre pagato con uno stipendio misero, allora hanno fatto i miliardi, poi allo stesso tempo quando sono ben ingranditi e ben sistemati se ne vanno all'estero e pagano le tasse, magari sì all'estero, però che non sono certamente le tasse come quelle che ci sono in Italia. Tu a questo punto hai dato dei finanziamenti, Stato italiano, fate rientrare tutti i soldi che hai dato, fate rientrare, invece no, niente da fa. Lui a chi piani di Napoli, i politici, non ha compreso, li mazzetti, li pigliano i burueddi e non riconvene a sticarla ai taglienti, a chi sono pagati i burueddi, bacagliassi i muddi. Invece l'ufficio entrate non è biglia, ma secondo me l'ufficio entrate ne biglia un bel di tangenti, capito? Per sotterrare molte cose, dai, Lauia. Ma te che cosa quando uno viene licenziato da una ditta, fa causa perché magari deve non so quanti stipendi, liquidazioni, tutto quanto, e dichiara fallimento. Questo lui risulta come amministratore, lui risulta così, lui risulta qua. Cioè ti rendi conto cosa riescono a fare pur di non pagare ciò che spetta all'operaio che si aveva già lavorato? Perché in primis è l'operaio che ci perde da queste situazioni che fanno, pilotano i rifallimenti, si cavano i ridinà, cazzo non sai più che fine ne va tu, fallimenti pilotati, i ridinà in un altro luogo e abbiano in un altro luogo. Si bica nella residenza e la cittadinanza e a te ti vutini, e una volta chi sono cittadini di un altro stato non li puoi fare un tubo, specialmente se non c'è l'estradizione. No, Natale, io sto parlando di imprese di qua, imprese, può essere un'impresa edile, può essere un ristorante, può essere qualsiasi cosa che uno c'ha qua e che continua a essere aperto, licenzia un operaio e non lo poteva licenziare, oppure l'operaio se ne va perché gli deve un anno di stipendio, eccetera, eccetera, gli deve fare la denuncia, ma sì, questo ristorante sì, è qua, però lui non è qua, lui risulta là, lui risulta nulla tenente, lui risulta, ma è bagaggio travagliato. Tizio o bagaggio travagliato? Un ristorante deve essere intestato a un nome, io dico, un nome, e a quel nome io cerco, e a quel nome io gliene prendo i soldi. Così deve essere, no? Che chi due risulta operaio, addirittura dello stesso suo ristorante. E nonostante tutto stanno sempre anni aperti, e gli operai senza biglia mai di là. Sì, dai, così. Risultano nulla tenenti e nulla facenti, la roba è intestata altra gente e non ne puoi pigliare nulla. E prendeva addirittura il reddito di cittadinanza, però non controlli il nulla tenente, ma spiegami come fa a essere nulla tenente uno se sta facendo un palazzone da 10, 15, 20 appartamenti, ma non è possibile che possa essere nulla tenente, è tutta una manovra, è tutta una manovra, e pigliava il reddito di cittadinanza, questo da poco mi l'ho sentito in queste sedute di politica che parlano di tutta la settimana, capito? Ma chi la vita è intesata da altri enti, la società, e chi su chi in casa non risulta, ha compreso come te giù, sono disonesti inside proprio, adesso te l'ho detto anche in inglese. No, non è che sono disonesti, sono deficienti i controlli che si devono fare, quelli tu devi controllare, perché non è possibile che uno possa essere nulla tenente se è un costruttore edilizio, ma quando mai? Capita, uno che fa un palazzone di 30 appartamenti è nulla tenente, ma vuoi scherzare? Fammi vedere, dimostrami che sei nulla tenente, come mai allora sei lì, tu, dirigente, e sei il padrone di questo palazzo? Non è possibile, devono fare controlli seri, non così all'acqua delle rose, ecco qual è il discorso. Va bene, lo sappiamo che di tanto in tanto magari promettono che fa niente, come la volta, non so, tanti anni fa, vi ricorderete che già l'hanno pubblicato su tutti i giornali anche, l'edilizia che c'è da Stentino, che qualcuno si prendeva gli appartamenti gratis, purché di dargli la licenza di costruzione. Gli ha mettato da voi un grande processo che è durato anni, però vi dottate alla fine si è pigliato l'appartamento gratis, diciamo, in cambio in un posto dove non poteva costruire, già lo sappiamo. E a chi l'hanno dato la licenza edilizia, anche se non poteva costruire, una volta che uno ha la licenza lo può fare, capito? Magari anda un po' a palazzo e non gli danno permesso ma costruì, hai capito? Ido ha pagato, è logico che gliel'hanno data la licenza. Appunto, lo sappiamo, no? Noi che vi sia dato la... Questo risale, penso, ormai saranno passati 20 anni, forse anche di più. Però se ne è parlato anche negli ultimi anni recenti, se ne è parlato di questo particolare. Capita, non lo so, tu in cambio della licenza edilizia ottieni magari un appartamento o un regalo. No, non lo so io. Chiaramente a certi imprenditori le conviene fare di avere la possibilità di costruire magari non uno appartamento, ma di costruire 30, nel punto dove appunto non si può costruire. Vabbè, avanti Nathalie, cioè avanti Luca. Infatti poi danno questi nomi fittizi, oppure società per azioni, società qui, società là, sempre per le tasse. Ok, io ti do ragione perché le tasse sono alte, però il problema è che poi ci rimettono gli operai, perché l'operaio quando va a cercare i suoi soldi dal sindacato gli dicono no, questo non risulta, mai una società per azioni, mai una società qui, una società là, è un offshore, è Guido, è l'altro. Cioè, ma di cosa parliamo? Io dico, devi tutelare l'operaio. Quella società deve essere interessata a una persona, non a Cipro e Ciapro, a una persona. Quella persona deve versare i soldi in quel conto per far vedere che quella sua azienda sta guadagnando, sta lavorando, e devono essere versati su quel conto, in modo che gli operai poi un domani, se tu non a caffè qui, a tizio, ecco, vado sul conto di tizio e do, prendo i soldi, li torno all'operaio. Invece no, lui ti accusa di società e tutti questi cosi, l'operaio è sempre che su grabbiglia. Addirittura ci sono società una dentro l'altra. Io per esempio non sapevo con chi cazzo ero assunto, perché una dentro l'altra le società, non riuscivi a arrivare a capo di niente, come le scatole cinesi. Un po' di tutti quanti, perché quando si va a votare certe situazioni, anzi certe persone difendono anche certe leggi stupide e assurde che sono sempre contro il lavoratore, sempre. E come se ne burlano i sindacalisti che loro protestano, dicono che difendono i lavoratori, invece in realtà sono i primi a firmare il contratto nazionale con una paga da morti di fame per tutti i lavoratori italiani. Tu hai nata lì? Sì, i sindacati non ne fa vedere, sono i primi che ci vendono. Infami, chissà, figuro, come era successo a me col panificio, lo stesso. Certo, mi aveva detto il sindacato, dice abbiamo cercato dappertutto, non ha un motorino, che è un motorino intestato, per dire, un motorino, dice non ce l'ha intestato, lui risulta, dice, solo amministratore delegato del panificio. Il panificio comunque, da quando io me ne ero andato, che ho fatto denuncia perché mi doveva dare lo stipendio, liquidazione, tutto quanto, comunque è stato anni aperto, capito? Nonostante tutto, che il panificio era con quel nome eccetera eccetera, dice non riuscivano a trovargli una cosa da sequestrarli. Ti rendi conto? A Bodizio in Bagosa uno anda e pone una bomba in luogo. Cioè, ma perché hanno anche ragione? E purtroppo è così, ci sono i truffatori. A Gianni ne hanno truffato un poco di dinà, per esempio. A Franco un casino di milioni che andranno in lire. Sono truffatori e basta, non c'è nulla a fare. Ma è il nostro sudore di anni di lavoro, cioè tu ti sei anche arricchito da una parte, è merito mio come di tutti gli altri operai che ci sono nell'azienda, no? E poi cosa fai quando mi devi pagare una liquidazione o perché mi licenzi per ingiusta causa? Fai tutto questo casino, vai subito a toglierne, ma non ti devi solo vergognare che quei soldi lì tu li hai guadagnati anche grazie a me. È quello che mi dà fastidio, capito? Avanti Giulio. Soprattutto grazie ai lavoratori, a tutti quelli che hanno lavorato, soprattutto li hai guadagnati perché sono stati quelli che te li hanno fatti guadagnare, cioè chi ha lavorato per l'impresa, certo che è così, purtroppo è così. Ma la cosa ancora più critica è quando vai a lavorare in certe imprese, per dire che quanto prendi? 1500 euro al mese, no? Però la sicurezza una stica partita per 1500 della madre a 800, cosa succede? Che poi finisci il tuo tragitto lavorativo e vai a prendere la pensione da morte di fame. Perché? Perché quello, oltre a aver preso pochi soldi già come paga, ti ha anche assicurato alla metà prezzo di quello che prendevi. Ma per quale motivo tu devi permettere queste cose nei confronti dei lavoratori? No, è una cosa assurda, guarda, veramente. Vai Natalia. Perché ci sono le leggi ingiuste, devono fare le leggi, ecco, tu quanto devi dare? 1000 euro di contributi, e 1000 euro devi nascere, non finché un franchi di manco. È logico che da voi chi tu c'è paga la pensione di fammi, ma cosa non fare i contributi chi deve avere, ma chi su che ha travagliato? È logico, no? Che è così. Sono le leggi ingiuste. Infatti, ma tu non devi permettere, tu Stato, non devi permettere queste cose nella maniera più assoluta. Invece so tollerano anche queste cose, perché si sa, la ditta cerca sempre di assicurarti per un prezzo, oppure se uno per dire, non so, è operaio specializzato, magari ti assicurano come operaio semplicissimo o addirittura come apprendista, sempre per pagare meno contributi. E da voi chi ce l'ha in tasca ce l'ha sempre il lavoratore alla fine del pensionamento. E a chi tu andi a Ravini a controllare? E da voi fai i conti e mancano la metà dei contributi. Ma forse da voi ti dai la pensione di fammi? Perché l'operaio deve controllarlo sempre, ogni tanto andare a controllare l'INPS come è messo, se no si trova fregato. Sì, ma è inutile che andi tu all'INPS una volta all'anno, ad esempio, intanto è tutto quello. controllando quello trasicolato per quella cifra che ha deciso lui, l'imprenditore. Da voi anda a proprietà, cosa dici? Cadi a demudio, se no ti licenziai un bulo. Ecco, tutte queste cose devono essere considerate, invece no, non è a difesa, è lavoratore, difesa, non ne ha nella maniera più assoluta. C'è da dire però, Giulio, anche che molti operai, per la famiglia e per tanti altri motivi, cosa fanno? Firmano una busta paga di 1700 euro, però sanno che prendono un assegno della metà, e lo sanno, e intanto continuano, perché la famiglia, e c'ho il mutuo, e c'ho quello è anche uno sbaglio. Ecco perché l'Italia, o comunque l'ambito lavorativo, va male, perché l'operaio dice, intanto se mi licenzio io e non faccio così, c'è subito l'altro pronto dietro l'angolo, sì, l'altro leccaculo come te, uguale identico, mentre se tutti questi leccaculi non ci fossero, sai che l'impresa ti deve dare quella cifra in busta paga, te la deve dare anche in assegno, e non è così, tu non ci lavori, non ci lavoro io, non ci lavora quello, non ci lavora l'altro, allora l'impresario capisce che forse è meglio metterli tutti veramente sotto contratto come si deve.